Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fate un bel respiro. Voilà, ecco che mezzo litro d'aria ce lo siamo assicurato e nei prossimi 60 secondi faremo ulteriori scorte. La cosa bella è che tutto questo avviene senza che ce ne rendiamo conto, nessuno deve ricordarsi di respirare. E allo stesso tempo tutti sappiamo bene che senza aria non c'è vita. E lo sa bene il nostro dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che è in linea con noi. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. La nostra vita inizia e finisce con un respiro, l'aria ci tiene in vita, come proprio il cibo, l'acqua, il sonno, è un carburante straordinario, col vantaggio di essere sempre a portata di naso. Dovremmo respirare col naso, anche se poi respiriamo spesso con la bocca. Sì, ha proprio ragione Nicoletta, l'ossigeno è alla base della nostra esistenza, i polmoni, come ha detto lei, sono dei formidabili serbatoi di questa benzina che sta sempre attorno a noi. E a questo proposito mi sono permesso di appuntare un bel aforisma che ho trovato ieri sera, un autore anonimo che dice così: la vita non si misura dai respiri che prendiamo, ma dagli attimi che ci tolgono il respiro. Bello, vero? Questa mi piace, me la segno. Poi detto anzi, da un pneumologo. La faremo mettere nella nostra pagina di Essere Benessere. Senta, dottor Boffi, intanto che noi facciamo un altro bel respiro, lei ci racconti a che cosa succede? Beh sì, un po', mi sento un po' come i filmatini, siamo fatti così, ecco, però ci provo. Dai, facciamo una quarcata. Ecco, allora. Non essere noioso, è affascinante il meccanismo con cui l'ossigeno ci dà appunto vita, perché ci sono degli scambi a livello della barriera alveolo capillare, quindi tra ossigeno e sangue, per cui queste molecole di ossigeno vengono catturate, vengono trasportate da dei taxi che sono i globuli rossi, l'emoglobina, e quindi dal sangue vanno poi ai tessuti, vengono rilasciati i vari tessuti. Questo è il meccanismo fisiologico, poi ci sono delle condizioni di salute o delle situazioni, certo, anche ambientali in cui questo non avviene in maniera adeguata, in maniera ottimale, quindi manca il fiato. Come facciamo a capire, a proposito, lei dice manca il fiato, se respiriamo bene? I sintomi respiratori sono i più soggettivi che esistono, sì, questo certo, è il loro fascino, però rende anche difficile fare una quantificazione. Sono state studiate e pubblicate diverse misurazioni, le cosiddette scale della dispnea, no? Quella che si utilizza di più in pneumologia inglese, del Medical Research Council, è molto semplice, ci sono 5 gradi di dispnea, cioè di affanno, fame d'aria. Cos'è la dispnea? È la sensazione che ti manca il fiato fino a una vera e propria fame d'aria. Sì. Ecco, se non ne hai proprio è 0, sì, se ce l'hai solo in salita è 1, se ce l'hai anche camminando in pianura è 2, se hai necessità di fermarti camminando in pianura è una dispnea di grado 3, e la dispnea più grave, quella di grado 4, è quella ai minimi sforzi. Certo, quindi... E allora lì bisogna assolutamente, anche alla 3 direi, andare dal medico per indagare meglio le cause di questo sintomo. Quindi, nonostante la mancanza di respiro, sappiamo essere molto soggettiva, anche il concetto di normalità del respiro è variabile, questi segnali che ci ha appena raccontato e descritto il dottor Boffi possono farci scattare un campanellino d'allarme. Dottor Boffi, e d'altronde lei diceva, è una cosa meravigliosa, il respiro è molto affascinante perché cambia anche con le nostre emozioni, ci segue. Assolutamente, sì, ci sono molte cose che lo influenzano, no? Anche il dolore è anche una cosa che lo condiziona in maniera pesante, però non c'è anche niente, c'è anche da dire che non c'è niente che ci faccia respirare male come proprio la paura di non riuscire a farlo bene, no? Magari per uno stato d'animo un po' inquieto, una situazione un po' di ansia. Ecco, quindi, poi quando uno è emozionato Si mette a fare la cosiddetta iperpnea, quindi a fare un respiro più profondo, ma soprattutto più frequente, la cosiddetta tachipnea, che è poco funzionale, poco redditizia. Mi ridice quell'aforisma, così ci salutiamo in bellezza? Volentieri. La vita non si misura dai respiri che prendiamo, ma dagli attimi che ci tolgono il respiro. Un aforisma suggerito dal nostro dottor Roberto Boffi. Buona giornata, buon respiro. Anche dottor a voi. Boffi. Respiriamo l'aria, è la primavera, E il respiro accompagna e fa parte delle nostre emozioni. Provate a pensarci anche voi. Quando siamo soddisfatti, sereni, appagati, il nostro respiro è regolare. Ma appena siamo invasi da un'emozione, da una preoccupazione, il respiro accelera. Quando sopraggiunge la malinconia, sospiriamo e a volte rimaniamo senza fiato. Per una cosa particolarmente bella oppure per qualcosa che ci fa paura. Allora, oggi, cari amici e care amiche, vorrei proporvi una lettura emozionale del nostro respiro. Proviamo a ricordare le occasioni in cui i cambiamenti del nostro respiro hanno anticipato e reso manifesti stati d'animo che non riuscivamo a raccontare con le parole. Ma vorrei anche che voi pensaste alle occasioni in cui il respiro è stato terapeutico, ci ha aiutato ad allentare le tensioni, a prendere coraggio, a resistere, a decidere. Chiamateci subito all'800 24 00 24, qui in studio con me il professor Giampaolo Perna. Adesso devo prendere il fiato perché la sua qualifica è molto lunga. Intanto grazie per essere con noi, direttore scientifico e primario presso la casa di cura San Benedetto Menia d'Albese Concassano in provincia di Como, e professore dell'università di Maastricht in Olanda e di Miami. Professore, allora, eccoci qua. Il respiro è l'unica funzione vegetativa che noi possiamo modificare con la coscienza, perché possiamo trattenere il respiro, cambiare il ritmo, cosa che non possiamo ad esempio fare con il battito cardiaco. E questo dettaglio, credo, ci dà un'indicazione e ci dice che forse è il cervello che comanda il respiro. Ma sicuramente il fatto che ci sia questo legame fra la volontà e una funzione così basilare per la vita della persona è centrale, perché noi sappiamo che noi possiamo amare, pensare, gioire solo se il nostro corpo funziona in maniera automatica e ottimale. Allora, fra i vari sistemi, quello respiratorio è l'unico su cui noi possiamo agire. Ricordiamoci anche che il cervello comanda il respiro, ma lo comanda da tutte e tre le sue postazioni: quella molto antica, cioè il cervello omeostatico, quello che controlla la vita, le emozioni, e sappiamo quanto per esempio l'innamoramento porta a quella sensazione di mancanza di fiato, quindi ci sono emozioni profonde e importanti. E al terzo livello invece quello della volontà, e la volontà ci permette di modulare quindi in qualche maniera le nostre emozioni e la nostra ansia proprio controllando la respirazione. Quindi dimmi come respiri e ti dirò chi sei. Ma io direi è possibile. Io direi che questo è molto vicino al vero. Molto spesso il nostro corpo è il vero, è la vera espressione di quello che noi abbiamo dentro. 800 24 00 24. Se volete intervenire, chiamateci per raccontarci un po' com'è il vostro respiro, come lavorate sul vostro respiro, vi accorgete di respirare, quando cambia e perché. Abbiamo capito con il professor Perna che il cervello comanda il respiro, ma che il respiro influenza il cervello. Quindi, professore, questo dovrebbe convincerci, anche spingerci a prestare maggiore attenzione al respiro per poi usarlo per mantenere e anche ritrovare il nostro benessere. Questo insegnano da tempo le discipline orientali. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. E qui in studio con me c'è anche il professor Stefano Tirelli. Buongiorno. Buongiorno. Docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Professor Tirelli, il respiro nelle discipline orientali è un vero e proprio alleato per la salute del corpo e anche per la mente. Sì, senz'altro, questa la prima forma di vita, questo soffio di vita che viene analizzato da secoli nelle diverse discipline orientali, da quella indiana col famoso prana, quella cinese con il chi o quella giapponese con il chi, ci dice che questa forma fisiologica basilare è proprio quella che dà la vita. Ovviamente sappiamo che nel primo momento di vita abbiamo bisogno di questa esplosione di energia. E questa situazione è fondamentale per la qualità della nostra esistenza, sia nella parte, direi, quotidiana che anche in quella sportiva eventualmente. E certo, ma professore, a noi manca un po' questa consapevolezza. Allora credo che sia più facile, dato che in Occidente noi tendiamo molto a concentrarci sul nostro corpo piuttosto che magari sul nostro respiro. Partire dal corpo per arrivare a capire come respiriamo. Professor Tirelli, ce la possiamo fare? Ma credo di sì, anche perché per cultura nostra occidentale siamo molto più focalizzati su quello che è pratico. Allora sì. Io direi che per esempio, analizzando anche nel nostro momento attuale, anche per i radioascoltatori che in questo momento sono all'ascolto, capire se abbiamo delle strutture muscolari in questo momento per esempio contratte. Guardi che... me il professor Perna, che così ci facciamo, gli scrocchiamo subito una visita. No, direi che c'è una buona armonia, per cui probabilmente le contratture sono abbastanza lievi, però per esempio noi abbiamo un po' tutti, direi. E direi che per esempio una cosa su cui è buono focalizzare l'attenzione è le contratture dei muscoli facciali, che sono strettamente poi correlati anche alla cosiddetta articolazione temporomandibolare, quindi anche a tutto ciò che è il trapezio, il collo. Spesso non ci rendiamo conto nella quotidianità, stando di fronte a un computer per esempio, ma tanto anche nell'attività sportiva, di come consumiamo energia anche respiratoria per nulla. Nel senso che se io devo pensare a quanta energia devo spendere respiratoria e cardiocircolatoria, che sono ovviamente strettamente correlate, durante la giornata devo essere anche bravo a gestirle e in qualche modo a ottimizzarle. Certo. Un maratoneta per esempio non può permettersi di essere sempre contratto nei suoi muscoli facciali, deve mantenere l'attenzione e la focalizzazione sul rilassamento dei muscoli degli arti superiori della faccia, per dare invece priorità a quell'energia di cui ha bisogno tutto l'apparato muscolare degli arti inferiori. Quindi vuol dire, professor Tirelli, le facce molto tese, dure, contratte, chiediamo anche al professor Perna, ad esempio le persone che spesso digrignano, anche non parlo solamente del digrigno notturno, quello che molti di noi non sanno neanche di avere, se lo scoprono poi grazie al coniuge che dice ma fai un rumore, o dal dentista, ma ci sono proprio persone che tengono proprio il morso serrato. In fondo queste persone, senza rendersene conto, lavorano male con il loro respiro, sono stressati, tesi, troppo contratti. Professor Perna, questo è un indicatore. State con la bocca serrata, apritela e chiamateci all'800 24 0024. E come ci ha detto il professor Tirelli, effettivamente c'è un legame stretto fra muscoli, articolazioni e respirazione. Un'altra cosa molto comune è la postura. Cioè, a seconda di come noi stiamo seduti, camminiamo, ci muoviamo, questo influenza la respirazione, la influenza in maniera molto importante. E noi sappiamo come, dal punto di vista del corpo, quindi dell'equilibrio del corpo, questo può essere un segnale di quanto siamo sicuri, ansiosi, depressi, tristi e così via. Quindi il corpo diventa non solo uno strumento con cui si manifestano i problemi, ma diventa uno strumento che può modificare quelle funzioni di base che poi ci fanno star bene. E infatti il respiro si fa, possiamo dire così, portavoce del benessere e del malessere che noi sperimentiamo ogni giorno. 800 24 0024 è il numero che ha fatto Antonella da Roma. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Ci racconti, Antonella? Io volevo dire che a me è cominciato tutto anni fa, diciamo i miei piccoli problemi di depressione, attacchi di panico, però proprio la prima cosa che mi è iniziato abbastanza presto era questa mancanza di respiro, cioè questa sentire che non riuscivo a respirare, quindi io cercavo il respiro e stranamente poi lo trovavo solo quando sbadigliavo. Questa è una cosa strana, però così. E da lì poi cominciavano i miei problemi, come se questo mi intossicasse, e poi mi ha portato piano piano proprio, insomma non so se era l'inizio di questa depressione, attacchi di panico, che io ho curato prima esclusivamente proprio con delle tecniche del respiro, e poi vabbè attraverso lo yoga io ho cominciato a capire la respirazione, tutte quelle cose che erano i miei campanelli d'allarme, e con il respiro sono riuscito a trovare come un'arma proprio per combattere l'inizio di questi problemi. Ora mi sento più tranquilla perché so comandare il mio respiro, so come devo fare per risolvere questa cosa, e diciamo è stata una cosa molto importante cominciare a capire il respiro. Assolutamente, infatti Antonella, noi oggi vogliamo proprio dedicare la nostra puntata al respiro, e ci faremo aiutare dai nostri esperti a capire quanto sia importante, quanto il respiro sia veramente uno strumento, per un alleato del nostro benessere, e anche un indicatore, come ci racconta il caso di Antonella, del nostro malessere. Molti attacchi di panico, professor Perna, iniziano con delle crisi respiratorie, un problema d'aria. Perché? Ma la teoria principale degli attacchi di panico, quella più in voga da diversi anni, anche perché sostenuta scientificamente, che esiste un falso allarme da soffocamento nella mente di chi ha il panico. Quindi che ogni tanto scatta un allarme che ci dice stai per morire soffocato. È chiaro che questo suscita delle reazioni violentissime che sono attacco di panico. Quindi la persona si trova a essere in preda al terrore e a iniziare anche a iperventilare. Quindi ventila di più, questo acuisce ancora più dei sintomi, quindi si spaventa ulteriormente, quindi si crea quel circolo vizioso che porta poi all'esplosione del panico. Quindi sicuramente imparare a rallentare il respiro durante l'attacco di panico è fondamentale proprio per evitare questo effetto rebound. E quindi è una capacità che si acquisisce anche frequentando magari corsi di yoga, avvicinandosi a discipline che hanno nel respiro un po' il loro fulcro, perché quando poi si è in preda ad un attacco di panico è difficile se non si ha avuto una scuola, un'educazione, governare il respiro. Ecco, lì bisogna stare attenti, molto attenti, perché un conto è applicare la meditazione o yoga che sono fondamentali per l'equilibrio individuale. Un conto è applicare una tecnica respiratoria per curare gli attacchi di panico. Non sono la stessa cosa. Il nostro gruppo e il gruppo a Stanford stiamo studiando da 10 anni una tecnica respiratoria precisa e, per esempio, una delle evidenze che sta venendo fuori è che la cosa centrale per il panico non è tanto rallentare la respirazione, quanto armonizzarla. Sono due concetti diversi. E questo in qualche maniera va contro alcune metodiche orientali che vengono utilizzate. Quindi è importante armonizzarla, magari mantenendo la frequenza respiratoria allo stesso livello. È vero che in generale la respirazione con la meditazione, lo yoga o altre pratiche è fondamentale per far ritrovare la calma alle persone, e la calma è cruciale. Assolutamente. E di respirazione continueremo a parlare nel corso della nostra trasmissione insieme al professor Perna e al professor Tirelli. Intanto, se attraverso lo yoga, attraverso la meditazione, praticando un'altra disciplina, avete avuto la percezione che di ritrovare un benessere, avete proprio toccato con mano che il vostro respiro vi aiuta a stare bene, 800 24 00 24, partiremo da qui, ma vogliamo anche sentire i vostri racconti di quando il respiro è diventato una sorta di campanello d'allarme. Noi vi aspettiamo dopo i mercati e il meteo, adesso i consigli del nostro Daily Lab e poi ci ritroviamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Perché non mi parla del suo amico? Questo amico è un tizio molto potente. Non aveva mai avuto problemi con niente e adesso all'improvviso casca a pezzi. Piange senza ragione, non può dormire. Non può più stare con i suoi amici perché all'improvviso diventa nervoso davanti a loro. È come se volesse sfuggirli. Eppure si tratta di gente che conosce da una vita. E poi gli prendono delle specie di attacchi. Lui non riesce a respirare. Si sente come svenire, dolori al petto. È come se si sentisse quasi morire. Attacchi di panico. Abbiamo anticipato, cari amici, che il respiro è un po' la cartina tornasole della nostra salute, psichica, emotiva e anche fisica. Sappiamo che il respiro si fa portavoce anche del disagio di alcuni organi, ma anche della nostra mente. Abbiamo parlato col professor Perna, stimolati da una telefonata di Antonella, degli attacchi di panico. Professor Perna, fermiamoci un attimo per puntualizzare la situazione. È molto importante essere chiari. Ovviamente la respirazione è un elemento centrale per il benessere di tutti noi, questo lo sappiamo, dobbiamo imparare a respirare, però dobbiamo anche ricordarci che ci sono delle patologie vere e proprie, il disturbo di panico, cioè la presenza di queste crisi cardiorespiratorie in qualche maniera che ci colpiscono in maniera ripetuta, sono l'espressione di un qualche cosa che non funziona bene. In questo caso rischiano di ingabbiare la vita in tutta una serie di ansie e di paure. Chi ha gli attacchi di panico non esce di casa da solo, non riesce a prendere i mezzi di trasporto, i negozi gli danno fastidio. In questo caso è fondamentale sapere che vanno curati. Ecco. Il fai da te non serve a molto. Il fai da te può dare un piccolo sollievo, ma bisogna rivolgersi a uno specialista, bisogna seguire le cure senza paure. Teniamo conto una cosa: quando noi parliamo di farmaci, uno è terrorizzato, lo psicofarmaco che cos'è? In realtà lo psicofarmaco è una sostanza che agisce sul cervello ma anche sul corpo. I farmaci più utilizzati nella cura degli attacchi di panico sono quelli che agiscono sul sistema della serotonina, sul trasportatore della serotonina. Pensate che sono presenti a livello polmonare. E quindi nel corpo. E qua, professor Tirelli, possiamo agganciarci anche alla sua specializzazione, perché lei fa un ponte tra la medicina occidentale e quella orientale. Sì, infatti analizzando quelle che sono appunto le diverse conoscenze mediche o di tecniche del benessere, è interessante osservare quello che anche il dottor Perna diceva adesso. Il fatto che nella medicina cinese, per esempio, la prima stazione energetica da cui parte tutto il flusso energetico e che poi nei meridiani dell'agopuntura va a incanalarsi è proprio quella dei polmoni. Quella è proprio la prima stazione che poi va verso i reni e quant'altro. E quindi è molto bello, molto interessante trovare queste similitudini che in realtà sono conoscenze comuni delle diverse tecniche. Quindi trattenete il respiro, restate senza fiato, vi manca l'aria. Ecco, non è detto che questo siano espressioni di attacchi di panico, tante volte noi ci rendiamo conto che siamo particolarmente tesi, contratti, stanchi, affaticati. Io vorrei proprio oggi darvi la possibilità, dare a voi la possibilità di intervenire chiamando il nostro numero verde e di chiedere ai nostri esperti come lavorare sul nostro respiro. Francesco da Milano, buongiorno, così io prendo fiato. Buongiorno a lei. Buongiorno. No, io volevo tanto ringraziarvi, soprattutto perché mi è venuta in mente una cosa. La trasmissione mi ha ricordato una cosa importante, cioè di quanto sia importante il respiro nella musica. Si parlava appunto del respiro come spia, no? Che ci dà la possibilità anche di ascoltarsi, no? E di capire un po' dove si sta andando, come si sta. Per esempio nella musica, io sono un musicista, è fondamentale il respiro ed è, diciamo, una delle regole principali che spesso si dimentica, soprattutto quando ci sono dei brani, dei pezzi molto complessi, e ci si dimentica addirittura di respirare mentre si fa l'esecuzione. E questa è una cosa fondamentale, ci fa capire non solo quanto sia importante il respiro per il nostro benessere, ma anche quanto conti sia importante per la qualità delle cose che facciamo. Francesco, ma lei che cosa suona? Io sono il pianoforte. Lei suona il pianoforte. Nel pianoforte, ad esempio, il respiro è fondamentale, cioè ricordarsi di respirare, di dare una cadenza al respiro, si riflette poi su tutto ciò che suoniamo. Penso che anche nella vita sia un po' così. Quindi, è vero. Francesco, come mi è piaciuto molto il suo intervento, perché ci dà degli spunti interessanti. Vedo che è piaciuto anche al professor Tirelli, no, perché noi facciamo anche, siamo anche in base a come respiriamo, eh? Ci faceva l'esempio, lui suona il pianoforte, ma invece io mi rendo conto che tante volte noi tratteniamo il fiato, è come se trattenessimo anche un po' l'energia, potremmo dare di più respirando meglio. Sì, professor mi Tirelli. Riallaccio anche proprio a un discorso pratico, esercitando tra le varie tecniche anche quella shiatsu, digitopressore. Mi è capitato sovente di cercare di aiutare persone, musicisti per esempio, che suonano il pianoforte. Questa condizione proprio è abbastanza frequente, proprio perché la concentrazione dell'artista, del musicista in quel momento tende a far dimenticare il fatto di respirare, e questo provoca a livello del trapezio, delle spalle, tutta una serie di contratture che con la digitopressione shiatsu possono essere aiutate. Una cosa però anche correlata, molto interessante, è il fatto che per esempio, se parliamo di onde sonore, di vibrazioni, ci possiamo collegare al fatto dei mantra. Sì. Allora, il mantra, colleghiamoci, che qua mi piace. Il mantra è una vibrazione sonora che da secoli può essere tramandata dalla cultura indiana, piuttosto che da quella giapponese, cinese, ma anche cristiana, con le famose, le messe una volta erano esercitate, certo, praticate con dei mantra, no? Lo stesso amen. Cosa succede? Che in questo caso, replicando, riproducendo, provando più volte a emettere questo suono, facciamolo, si ha un'irrorazione sanguigna maggiore, una capillarizzazione dei tessuti anche a livello periferico e un'attivazione degli alveoli polmonari molto molto molto più ampia. Quindi il mantra è un'esercitazione vibrazionale, vocale, respiratoria, che aiuta moltissimo in questo senso. E noi andiamo a Pistoia perché c'è Alessandra. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io chiamo perché voi avete aperto la trasmissione dicendo che bisogna respirare, la cosa base, insomma, con il naso. Sì, dicono così, ma spesso noi facciamo, respiriamo con la bocca. Io respiro sempre a bocca aperta. Questo è il mio problema, anche per la struttura probabilmente della mia bocca. Mi hanno tolto le adenoidi da piccola, non so, ho il palato stretto, non so se dipende da questo. E quando provo a respirare chiudendo la bocca ho la sensazione che mi manchi un po' l'aria. E purtroppo questa cosa l'ho trasmessa forse per imitazione anche a mio figlio, che non ha i miei stessi problemi, però respira a bocca aperta. Insomma, respirano tutti costantemente. Ma questo può dare problemi? Sarebbe meglio, perché l'aria, insegnate voi medici, passa attraverso il naso, ci sono quei peletti, la pulisce, la riscalda. e insomma tutti i vantaggi, ma se uno, professor Perna, gli viene da respirare con la bocca aperta. Non è un dramma respirare, l'importante è respirare innanzitutto, e il modo in cui respiriamo. Poi dopo è chiaro che il naso ha una conformazione tale per cui umidifica meglio l'aria, la purifica, eccetera, per l'amor di Dio. Però è importante sapere che non è un problema, ognuno ha le proprie abitudini, l'importante è che siano in qualche maniera equilibrate per noi stessi. Claudio, buongiorno, da Lecce, 800 24 00 24. Io vorrei, Claudio, intanto stia lì, vorrei invitare i nostri ascoltatori a farci sentire il loro respiro proprio. Poi sembrerebbe una cosa, no, dei film gialli, quando c'è il maniaco che fa... Perché non per fare questo, ma perché tante volte noi, io me ne sto rendendo conto, lo tratteniamo oppure aumentiamo il ritmo, e io vorrei che voi ci forniste gli strumenti per capire come legare questo agli stati d'animo. Claudio, stia sempre lì, Ma una cosa fondamentale, la respirazione è l'elemento chiave della comunicazione. Pensiamo, quando noi parliamo è tutto un trovare un equilibrio automatico e non automatico fra quello che è la respirazione e quello che è il fatto di fare dei vocalizzi. Questo è influenzato da tutto, innanzitutto dalle emozioni più profonde, quindi noi possiamo capire le persone ascoltando esattamente il modo respiro, che respirano. Quindi 800 24 00 24, respirate ai microfoni di Radio 24. Fatemi salutare un attimo Claudio da Lecce. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno, guardi che Roberto Scaltritti mi ha detto che era il tempo di dare le informazioni sul traffico, ma io ho detto facciamo un blitz da Claudio che ci chiama da Lecce. Che cosa ci racconta? No, io volevo domandare al professore in poche parole, prima di andare a dormire la notte, io ho preso l'abitudine di 2 o 3 anni a questa parte di fare una 50 o 60 respiri profondi, in poche parole, solo col naso e con i polmoni naturalmente, tirando col naso, trattenendo 15 secondi il respiro e poi emanarlo. Come le è venuta questa idea, Claudio? Ma io pensavo questo per ossigenare poi il sangue, in poche parole, no? Lei dice me lo ossigeno bene, poi vado a letto, mi faccio una bella dormita e al mattino sono fresco. A una certa età ci vuole anche l'ossigenazione del sangue. Claudio, a una certa età, ma a tutte le età ci vuole un po' di tutto. 800 24 00 24, le strade, poi di nuovo insieme. Claudio ci ha dato una ricetta valida, a tra poco. Essere e benessere. What life has dealt to me, with every sadness I deny, I feel a chance inside me that gives me. Respirate amici, respirate, chiamateci all'800 24 00 24. Claudio, professor Tirelli, che ci ha suggerito l'idea di fare queste 50 respirazioni profonde prima di andare a dormire per ossigenare il sangue e farsi una bella dormita, ci ha dato un buon consiglio oppure forse 50 sono troppe? No, probabilmente 50 possono essere anche un pochino troppe, però una cosa interessante secondo me è, che può aiutare la persona ad addormentarsi magari un po' meglio. Una volta essendo supino, pancia in su nel letto, porre le mani sull'addome, sul proprio addome, e nel silenzio si spera della camera da letto in cui stia, ascoltare con una inspirazione dal naso e in quel caso gonfiando l'addome ed espirando dolcemente con gradualità dalla bocca, sgonfiando per così dire l'addome. Però la cosa interessante, questo lo sanno tutti, ma la cosa interessante è cercare di sentire il respiro, cioè ascoltarlo, perché assomiglia molto alle onde del mare. L'inspirazione e la espirazione possono ricordare questo flusso delle onde del mare, e che si accompagna bene nel blu della notte, nell'azzurro della notte, e quindi io credo che sia di facile così pratica per tutti. Professor Perna, adesso voglio vederla, perché il professor Tirelli è direi, oltre che darci consigli pratici, l'ha fatto in modo poetico. Questo è importante. Questo è importante perché è vero. Professore, intanto, a proposito di respirazione, molti dei nostri ascoltatori mi chiedono: ma come si respira per calmare un attacco di panico? Noi abbiamo, lei ha sottolineato bene, se avete un attacco di panico vi state riconoscendo nei sintomi descritti dal professor Perna, no alle cure fai da te. Quindi non è con una respirazione che si affronta questo problema. Il respiro può aiutarci nelle situazioni di ansia, di stress, il respiro può anche aiutare l'atleta ad avere performance migliori. Ma professor Perna, a lei. Guardi, innanzitutto l'attacco di panico quando parte parte, quindi prevenirlo non è possibile, perlomeno dal punto di vista del comportamento. Quello che si può fare è evitare che esploda. In questo caso bisogna evitare di respirare affannosamente, cioè dobbiamo rallentare il respiro, controllare il respiro, eventualmente trattenere il fiato durante l'attacco, che sembra il contrario di quello che uno vuole fare. E nel caso in cui non ci riusciamo, anche la tecnica molto banale di usare un sacchetto di carta e respirarci dentro evita che andiamo in quella che è l'alcalosi respiratoria, che è quella iperventilazione che ci fa star peggio. Quindi rallentate il respiro. Ovviamente per fare questo bisogna allenarsi prima. Quindi imparare a rallentare il respiro nella quotidianità ci permette nei momenti di emergenza di applicare automaticamente questo meccanismo. Se non ce la fate non è colpa vostra, perché l'attacco di panico è sempre molto potente. In questo caso comunque sempre rivolgersi a uno specialista. E siamo quasi in chiusura, ma c'è ancora tempo per le vostre telefonate, ma soprattutto volevo parlare con voi di una ricerca molto interessante, che è andata a indagare gli effetti dell'abbinata ascolto musicale e respirazione lenta. Ne parliamo col professor Pietro Amedeo Modesti, docente di medicina interna all'Università di Firenze, che ha pubblicato con il suo gruppo su una rivista prestigiosa proprio questa ricerca. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professore, mi racconta, perché ascolto musica, respiro lentamente e che cosa succede? Succede esattamente quello che in fondo hanno detto sia Tirelli che Perna, cioè con il respiro lento, in questo caso guidato dalla musica, io ho una riduzione dell'attività simpatica, di quella che porta a una vasocostrizione, un aumento della pressione arteriosa. Se io respiro lentamente, questa riduzione della pressione arteriosa ce l'ho acutamente, ma l'osservazione importante è che se questo viene fatto tutti i giorni, per almeno 30 minuti al giorno, ottengo una riduzione della pressione arteriosa che si protrae poi dopo nel tempo. Quindi continuando per 6 mesi, al termine dei 6 mesi, nel gruppo assegnato a questo tipo di trattamento avevamo una riduzione della pressione di 5 mm mercurio, che è l'effetto di un farmaco. Quindi professore, diamo un compito ai nostri ascoltatori da oggi, mezz'ora al giorno di musica con respirazione lenta, lo possiamo consigliare alle persone che sono ipertese, non per questo diciamo di buttare via i farmaci, ma provate, lo possiamo consigliare alle persone che non hanno la pressione alta. Certo. Perché il respiro è un bel massaggio e l'ascolto musicale abbinato a una respirazione lenta, come il professor Tirelli ci insegna, ossigena cuore e mente, professor Tirelli. Sì, sì, infatti proprio l'abbinamento musica, onde vibrazionali e respirazione è fondamentale, non per nulla quando siamo accompagnati nella nostra attività anche professionale da una musica di sottofondo piacevole riusciamo a lavorare anche meglio con meno retensioni, è fondamentale questo. Professor Modesti, grazie per essere stato con noi. Grazie. Seguiremo sicuramente il suo consiglio. Benissimo. Buongiorno, e io vado rapidamente, se c'è ancora spazio, sì, a Ugo, che ci chiama da Forlì. Ugo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno professore. Il mio problema è questo. Ho una respirazione breve, non profonda, e veloce. E questo anche in situazioni di assoluta tranquillità, calma, rilassatezza. Me lo fa notare mia moglie quando mi è vicino, mi dice: ma tu respiri velocemente e poco profondo. E in più si accorge, ma questo me lo accorgo anch'io, che faccio delle pause anche di 10-20 secondi senza respirare, ma questo non è un'apnea notturna. È proprio da diurno. Possiamo dare un consiglio a Ugo, che grazie proprio alla moglie faccio notare, ci racconta questo suo modo di respirare che sembra un pochino fuori norma, perché è troppo rapido, professore. Ricordiamoci che ognuno di noi è diverso dall'altro, quindi se lui sta bene con questo modo di respirare, per me va bene, cioè non vedo una patologia in atto, anche perché l'iperventilazione che lui fa viene compensata dalle pause, quindi il suo stesso corpo che gli dà delle indicazioni precise. Allora, noi dobbiamo chiudere qui. Professor Tirelli ha un consiglio rapidissimo di un secondo. Sì, ogni tanto provare a sforzarci di sbadigliare. Uno sbadiglio, wow, diciamo forzato, apre tutta la respirazione. Allora, sbadigliate, amici, e ritornate con noi domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata e buon respiro dalla vostra Nicoletta. Essere e benessere.